Purtroppo in cucina me la cavo malissimo, nel senso che so fare il caffè, poi so fare la pasta in bianco e poi basta. Io fino a Londra la mia unica priorità era il nuoto. Perché si parla di Mario che va a escort, Mario che ha le macchine belle, Mario che manda a cagare chiunque. Tutti convocati di Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, ultima puntata di questa prima settimana di Tutti Convocati. Già ne stiamo studiando di nuove, in particolare Franco Piantanile in redazione. Oggi c'è Matteo Comes in regia. Allora, oggi tutti convocati all'800240024 per parlare di nazionali, di una scalata, quale mi sembra quella che ha di fronte Sara Errani questa sera alle 21:45 contro Serena Williams. A proposito, bel derby questa sera tra la nazionale di calcio 20:45 e gli US Open con Sara Errani alle 21:45, poi vediamo chi vince. Tutti convocati anche per parlare di ritorni ad effetto di certi monumenti e di una corsa che può decidere una stagione, che è naturalmente quella di Monza, ma di tutto quello che volete. 800240024. Noi cominciamo dalla nazionale che parte per il Brasile, speriamo, da Sofia, con una nazionale che vuole essere sempre più giovane. D'altra parte, l'abbiamo sentito prima nel GR, lo dice anche Monti, non c'è crescita senza i giovani, dobbiamo credergli. Enrico Currò, inviato di Repubblica. Ciao Enrico, grazie. Ciao Carlo. Cosa dici? Vuole essere sempre più giovane la nazionale di Prandelli? No, secondo me la No. nazionale di Prandelli l'ha detto lui chiaramente ieri, deve qualificarsi, punto e basta, nel senso che tutto il resto è importante, ma è ovviamente un accessorio. L'obiettivo è quello e se questo obiettivo significa schierare qualche giovane perché bisogna farlo, perché serve, bene. Se serve richiamare un 38enne, dico per assurdo ovviamente, può Sì. essere richiamato il 38enne. Se il modulo non c'è tempo per provarlo, si fa il 3-5-2 perché è quello che quasi tutti i giocatori convocati fanno, cioè la priorità diventa assolutamente il risultato, in questo caso 6 punti tra Bulgaria e Malta, perché se no, anche se il girone non è impossibile, può diventare complicato, perché è un girone in cui ci sono non squadre pazzesche, ma tutte squadre contro le quali puoi perdere, lasciare per strada qua e là dei punti, Sì. che poi possono diventare, soprattutto quando i club e la loro intrusione nella vita della nazionale diventano a volte un po' eccessive. Se tu hai già perso dei punti e ti trovi magari a dover inseguire, beh, questo non è Certo. bello. E quindi è chiaro che Prandelli dice ringiovaniamo, ma non è questa la priorità in questo caso. In una logica molto italiana si punta per prima cosa al risultato, tant'è vero che si ricomincia da una coppia offensiva, Giovinco Osvaldo, due che gli europei li hanno visti alla TV. Però evidentemente Prandelli li considera il meglio che possiamo schierare oggi in attacco con Balotelli che si è fatto barare agli occhi o per altre ragioni, insomma. Più che altro, Carlo, lui ha detto molto chiaramente che giocano questi due perché degli attaccanti che ha convocato, che poi oggettivamente erano quelli che poteva convocare, i superstiti, diciamo così, Osvaldo e Giovinco erano quelli più in forma. Lui ha detto che il criterio poteva essere unicamente quello e lo ha seguito. Sì, tu come lo vedi questo gioco delle coppie degli attaccanti, Enrico? Ieri abbiamo Ma provato a io. farlo, insomma, ne abbiamo diversi, mettendoci dentro anche Cassano, mettendoci dentro anche gli assenti come Balotelli, mettendoci un possibile, cioè un recupero che mi auguro certo di Giuseppe Rossi, magari l'esplosione di destro, insomma, c'è molto movimento lì davanti. Sì, il movimento, se uno si va ad analizzare quello che è successo, diciamo, dai tempi di Vieri in poi, è Sì. una costante della nazionale. È successo probabilmente perché gli attaccanti erano in alcuni momenti ce n'erano tanti bravi, in altri ce n'erano tanti infortunati o indisponibili. Il fatto sta che se tu ci vai a prendere l'almanacco con le partite della nazionale, puoi constatare chiaramente che negli ultimi 10 anni, diciamo, raramente si è vista la stessa coppia d'attacco per più di 2 partite consecutive. Anche questo è Sì. successo anche nelle grandi manifestazioni a volte, eccettuato l'ultimo europeo. E questo significa probabilmente anche un'altra cosa, che ci sono tanti bravi attaccanti, ma che non ce n'è nessuno, almeno in questo momento, sì, che sia indiscutibilmente il titolare. Sì, non è necessariamente un bene che cambino ogni volta no, questo. Secondo me neanche, però è anche vero che bisogna abituarsi a un tipo di calcio che fuori dalle grandi manifestazioni, dalle fasi finali di un europeo o di un mondiale, possa appunto vedere una rotazione che è quasi fisiologica, nel senso che gli infortuni in particolare sono tantissimi e quindi è abbastanza impossibile per un CT poter, questo non vale tra l'altro soltanto per l'Italia ma sì, anche per le altre grandi nazionali. Naturalmente. Senti Enrico, un'ultima cosa a proposito di attaccanti che però non c'entrano più con la nazionale, almeno per il momento, a meno che Toni non segni 46 gol con la Fiorentina e Borriello 52 con il Genoa. Come valuti queste operazioni nostalgia? Operazione nostalgia certamente a Firenze, Borriello a Genova ha vissuto la stagione della sua esplosione, quando definivano Dino Meneghin monumento nazionale lui spesso rispondeva che i monumenti sono buoni per i piccioni. Sì, sì, questo è verissimo, però naturalmente poi c'è caso e caso, perché Toni viene da una serie di stagioni che ha un'età tale per cui obiettivamente quella della Fiorentina al momento, speriamo di no per lui e per la Fiorentina, sembra proprio una scommessa. Borriello invece ha un'età diversa, ha una condizione fisica almeno apparentemente diversa, per cui diciamo che l'azzardo in questo caso è un po' più limitato. Però è chiaro che è vero quello che dici tu, di solito i cosiddetti cavalli di ritorno raramente funzionano, ci sono delle epoche che sono belle e poi non è il caso di rispolverarle sempre. Sì, io sono abbastanza contrario ai grandi ritorni, anche quelli che smettono e poi tornano in sella, in pista o dove vuoi tu, sono abbastanza contrario, o in campo, perché quasi mai funziona. Grazie Enrico, buon lavoro. A voi, buona giornata. Grazie Enrico Currò. Allora, tutti convocati, 800 24 00 24, numero verde, torna da me. Poi scappo via, che malattia. Passa col tempo solo in teoria e allora tu da ora bruciami, bruciami, bruciami, bruciami, ma torna, torna, torna con me. Avevo ancora una grande voglia di giocare, di fare bene, perché mi sento ancora la voglia di sentire l'adrenalina, la gente, le pressioni, le cose. Con i miei procuratori gli ho detto: guarda, se c'è la possibilità di tornare a Firenze, perché se sono diventato quello che sono e quello che ho fatto, è chiaro che lo devo soprattutto questi 2 anni dove ho fatto a Firenze. Quindi tornarci avevo un po' di preoccupazioni, perché sai, tornare in una piazza dove hai fatto molto bene è difficile. Però volevo ritornare qua per cercare di dare una mano alla squadra e poi ripeto, sono veramente molto carico. Bruciami, bruciami. Una parola che è moderna, non mi sento un top player ma mi sento un bel player dai, che funziona. No, credo di essere comunque un giocatore che quando gli sia stata la possibilità di giocare con continuità comunque i suoi gol li ha fatti. Non lo so quanti gol, però sicuramente se non ne faccio almeno 15 con quello che ha detto il presidente rischio anche di prendere qualche scarpata. L'unico rientro dopo l'addio all'agonismo degno di essere ricordato è stato quello di Michael Jordan a Chicago per vincere altri titoli, naturalmente, ma quella era stata una storia strana e diversa per chi se la ricorda. Michael Jordan si ritirò quando era all'apice, forse non ancora all'apice della sua carriera, per motivi rimasti alla fine abbastanza misteriosi, poi è tornato, ha vinto quello che doveva vincere, però poi ha commesso l'errore di tornare anche lui dopo aver smesso di essere un giocatore, e mi ricordo l'ultima penosa stagione di Michael Jordan con i Wizards. Il ritorno di Lance Armstrong lasciamolo stare. Michael Schumacher oggi primo a Monza, poi ne parliamo. Acuto di Schumacher, ma sono le prove del venerdì. Anche su questo ritorno avrei da dire, non so voi. 800 24 00 24. Claudio da Genova sarà contento perché è tornato Borriello, il bel player. Buongiorno a tutti. Beh, se fa gli stessi gol che ha fatto Milito quando è ritornato, sì, ci metto la firma. Ah, certo. Ora, anche se fa quelli che ha fatto l'altra volta, 19. Ecco, magari. Magari. Allora, io volevo parlare invece di stasera. Sì. Che a Genova c'è il trofeo spagnolo. Mm. Quindi oltre agli festeggiamenti per i 119 anni del Genoa, stasera si ricorda anche quello che è successo nel 1995. Sì, sì. E vorrei invitare, beh, chi può e chi ha la possibilità di andare allo stadio. Sì. E chi non può, almeno di avere un piccolo pensiero, sì, a quello che è successo 15 anni fa, nel 95, scusate. Mm. E affinché non succeda veramente, veramente più una cosa del genere. Certo, grazie, l'ha fatto bene. No, ma grazie a lei Claudio, questa sera trofeo spagnolo che vedrà ospite il Galatasaray di Terim, e sarà anche l'occasione per vedere il debutto di Boriello con la maglia rosso-blu, perché è stato già detto ci sarà spazio anche per lui. 800 24 00 24, numero verde. Ve l'ho detto tra le altre cose, un altro argomento interessante. Stamattina ve l'avevo raccontato questa indiscrezione di France Football in GR Sport. Ebbene, France Football oggi ha pubblicato anche le bozze del contratto. La Juventus ha offerto 5 milioni l'anno a Drogba l'ultimo giorno di mercato. France Football pubblica appunto i documenti di questa offerta poi declinata, a cui sommare un premio da 500.000 euro se l'attaccante avesse giocato almeno 70% delle partite stagionali. Ma Drogba ha deciso di rimanere in Cina, evidentemente, perché ha capito che gli arriveranno i fantastiliardi promessi. Andrea, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo dire una cosa e vedere cosa ne pensavi tu sulle dichiarazioni di Alonso, che dice di avere più paura di Hamilton che di Vettel. Io ho idea che Alonso sia veramente un personaggio molto spesso come caratura, anche umana, ed è molto intelligente, e credo che lui abbia paura di Vettel, ma non gli vuole dare importanza e questa sia tutta una quindi, tattica. Dici gioco psicologico? Sì, sì, secondo me è diventato talmente forte che è a quel livello, cioè è una tattica psicologica, e Alonso secondo me ci regalerà tante cose, anche perché la Formula 1 è diventata un po' Anche sì, perché è il più forte pilota che c'è, senza discussione. Sì, sì. E poi è ritornata guardabile la Formula 1, nel senso che c'è un po' più, è molto combattuta e così. Certo, e lui mi sembra che abbia qualcosa in più. E poi, se hai voglia, anche qualcosa sul Milan. Voglio sapere cosa ne pensavi del Milan di quest'anno, che non l'ho seguito ultimamente. Non l'hai seguito? Poco, ti ho sentito un paio di puntate all'inizio settimana scorsa. Ah, ho capito. No, però fa niente, più che altro Alonso. Più che altro Alonso, no, io credo che Alonso sia grande favorito di questa stagione. Non c'è nessuno che merita questo titolo come Fernando Alonso, ma proprio per quello che ha fatto all'inizio della stagione con una macchina che non andava neanche a spingerla. Quindi proprio per quello, per essere riuscito a resistere, a conquistare anche cose importanti, a combattere. Io credo che nessuno meriti questo titolo come Alonso, ma il traguardo è ancora lontanissimo, anche se credo che Monza sarà una gara chiave. Non so se Alonso dica se sia un gioco psicologico questo di dire che teme Hamilton, perché secondo me in fondo è così, ma poi abbiamo un ospite che ci spiegherà tutto. Intanto questa mattina, come detto, primo tempo di Schumacher, Alonso quarto, ha avuto un problema alla macchina, ma insomma sono le prove del venerdì. C'è Carmelo Curella sul nostro Twitter che scrive: Toni a Firenze non è un ritorno, è una riesumazione addirittura. 800 24 00 24. Tra poco scopriamo che c'è anche invece una città in cui si rinasce, però prima parliamo con Andrea da Trento. Salve, buongiorno. Buongiorno. Sì, tanto è un piacere sentirla anche durante la settimana, oltre al weekend. Grazie. Beh, weekend sarà qualcun altro, ad esempio, anzi vi ricordo l'appuntamento del weekend, sempre 17-18, sia domani che dopodomani, con A Tempo di Sport, non con tutti i convocati, che è un prodotto settimanale, ci sarà Giovanni Capuano. Dica Andrea. Beh, in ogni caso sicuramente è un piacere ascoltare comunque la trasmissione. Niente, io volevo fare una piccola critica al mondo dei media, diciamo. Prima volta all'ambiente del calcio, dove praticamente si tende troppo a criticare quanto si fa all'interno del calcio con i giovani e con tutto quello che può essere la crescita in generale, pretendendo risultati, e dopo è facile naturalmente parlare, spostare l'attenzione su quello che è il calciomercato. Onestamente credo che non possa aiutare la crescita di un popolo, di una cultura calcistica, e poterci far vincere qualcosa in futuro. Ricordo che il Barcellona pochi anni fa veniva fuori da un progetto e dopo è diventato quello che è diventato insieme alla Spagna. Il calciomercato è un grande gioco, è un risico, è forse anche l'ultima frontiera della fantasia, no? Per un calcio in cui vediamo tutto, in cui vediamo una partita al giorno, in cui si entra negli spogliatoi inutilmente, in cui si guardano gli allenamenti. Io credo che il calciomercato sia l'ultima frontiera della fantasia e del gioco vero, cioè quello della, così, del sognare, ma chi non arriverà mai, chi potrebbe arrivare, nel leggere queste l'offerta di 5 milioni a Drogba poi rifiutata. Io credo che il calciomercato c'entri poco con la crescita dei giovani. Credo che i giovani possano crescere soltanto giocando al livello che meritano, che sia la Serie A, la Serie B o la Serie C, però non possono certo crescere stando in panchina, che sia l'Italia, che sia la Spagna, che sia il Lussemburgo, che sia un altro paese. I giovani possono crescere soltanto sul campo e giocando, su questo non ho alcun dubbio. Dicevo, ritorni, ma c'è anche una città dove si rinasce, poi voglio sentire la vostra opinione. 800 24 00 24. A Bologna i portici tengono in piedi le case. Lui aveva iniziato benissimo, cioè non c'era nessun problema, forse era prevenuto lui per certe cose, tipo so che disse al presidente del Bologna Gazzone, che fu lui in pratica che mi portò lì, fa con Baggio andiamo in Serie B, cioè è andato in Coppa UEFA, voglio dire, credo che l'ho meritato perché ho fatto 22 gol, perché sono stato il capocannoniere italiano e perché lo meritavo. Avevamo bisogno di un risultato positivo, soprattutto di una vittoria, e quindi siamo molto contenti di questo. Poi festeggiare così le 100 partite nel Bologna è la mia cosa. Anche all'odore di Cabo Ide vicinato. Tanti tifosi, tanta gente che mi vuole bene, sto ricevendo migliaia di attestati di stima da parte di tutta Bologna. Quello che ho costruito qua in questi 4 anni è stato qualcosa di fantastico per me. Voi tutti sapete come io sono arrivato, come la gente mi considerava al di fuori nel calcio italiano, cioè un giocatore finito che non poteva dare più niente, che non aveva più niente da dire nel calcio italiano. Avete riconosciuti Baggio, Signori, Di Vaio, e adesso c'è un altro che ci spera in questo effetto magico Bologna, Girardino. Completamente diverso dai tre nomi che hai appena detto, sia di Roberto Baggio che Beppe Signori, forse assomiglio un pochettino di più a Marco, e sono una prima punta che mi piace giocare molto dentro l'area, mi piace giocare molto per la squadra. Se sono venuto qua e se ho deciso insieme al direttore, insieme alla società di poter giocare qua, è perché ho grandissimi stimoli, ho grandissima voglia di mettermi ancora alla prova, di dare ancora tanto, e quindi dipenderà da me, dipenderà sicuramente dalla squadra, ma dalla mia voglia di far bene, di far gol. Beh, si deve risollevare la sua carriera Alberto Girardino. Raffaele, proprio da Bologna. Signor Carlo? Signor Raffaele? Sì, la sento, mi hai anticipato, mi hai rubato la domanda. Cioè? Perché in fatto di riesumazione volevo chiederti, appunto, visto che abbiamo riesumato Baggio, Signori, volevo capire... Riesumato è una parola un po' tosta, è un po' forte. No, vabbè, Baggio io... Diciamo rivitalizzato, che mi piace di più. Ma quando è arrivato a Bologna era parecchio basso, così, era veramente... L'hanno un po' riciclato, insomma l'hanno rimesso a posto, visto che l'anno dopo è scappato e se n'è andato all'Inter. Sì. Io ho dei vecchi ricordi, un po' così, perché non vado più allo stadio purtroppo per lavoro e via dicendo. Ma volevo appunto farti una domanda su Girardino, cosa ne pensi? Punto. Beh, Girardino è uno che ha sempre fatto gol, di recente ha smesso. Gli attaccanti sono così, quando perdono fiducia in se stessi, magari perdono la fiducia totale dell'allenatore, non trovano il gol... Sono come i velocisti, come gli sprinter, sono animali tra virgolette molto strani, gli attaccanti. Io credo che Girardino sia uno che è ancora capace di fare molti gol, quindi vediamo se Bologna potrà avere questo effetto su di lui. Probabilmente la collocazione in questo momento ideale per un giocatore che comunque sa segnare, ripeto, come Girardino. Andrea Prato. Sì, buongiorno Genta, volevo un suo parere a proposito del mercato piloti di Formula 1. Mercato? Sì. Fa un tanto parlare del futuro pilota che affiancherà Alonso, parlano di un Vettel dal 2014, sicché Massa, che è talmente cadaverico dopo che ha preso la molla nel capo da andare dallo psicologo, non sanno se tenerlo, ma sai che gli voglia fare. No, Massa... Ma io credo che in un team di Formula 1 ci voglia una prima guida e uno che dà una mano alla prima guida. La prima guida è Alonso, non credo alla teoria dei due combattenti che si rubano i punti, ma questa è una mia vecchia idea. Quindi se hai Alonso, corri per Alonso e gli affianchi un pilota in grado di dare una mano nello sviluppo della macchina e anche nel rubare punti agli avversari, però... Però insomma la prima guida è Fernando Alonso, non so Vettel nel 2014. 800 24 00 24 per entrare nel gioco di tutti i convocati. Un piccolo accenno all'Under 21 o no? Domanda Claudio da Chieti. Sì, cosa volete che vi dica? Cioè giocava con Liechtenstein, ha vinto 7-0, se volete chiamarla una partita di calcio, vabbè, fate pure. La notizia è che siamo qualificati per i playoff, Mangia è all'inizio del suo lavoro, dunque mi sembra ci sia poco da dire al di là del dato statistico su questa partita. Invece una notizia di poco fa, è che molto bella, è che Robert Kubica tornerà a correre, tornerà presto alle competizioni con un mini rally in Italia. E proprio di corse, di questa corsa che potrebbe essere un crocevia della stagione, voglio parlare con Flavio Vanetti, inviato del Corriere della Sera. Ciao Flavio. Sì, buongiorno a tutti. Ciao. Buongiorno a lei. Senti, domanda che c'entra poco, però che cosa ti ha fatto muovere dentro vedere un atleta che conosci molto bene come Alex Zanardi vincere non su un'auto a Brenzacci? Ma direi che il caso di Zanardi è un caso fondamentalmente innanzitutto di un grande atleta, di un grande agonista e poi chiaramente anche di un grande uomo che ha rinunciato all'idea di arrendersi di fronte alla grave minuzione che ha avuto, per cui diciamo che forse in linea un po' con le caratteristiche del personaggio, tenace, se vogliamo anche cocciuto e appunto grande, grande campione, per cui non mi ha assolutamente sorpreso e penso sia un bel messaggio, però sinceramente non ho idea se ci sono tanti Zanardi in circolazione, cioè nel senso di persone con questa capacità e anche con, secondo me, con questa leggerezza nel metabolizzare questa grave menomazione che lui ha avuto. È veramente una prova, oltre che sportiva, forse prima di tutto di ordine umano. Sono d'accordo, come ci ha raccontato ieri ai nostri microfoni proprio Zanardi. Senti Flavio, senti i rumori della pit lane, della pista, dalla pit lane di Monza, sì, su cui ti trovi. Prima dicevo Monza incrocio della stagione, è vero che la linea del traguardo mondiale è molto lontana, però è anche vero che dopo quello che è successo a Spa tocca ad Alonso confermarsi. Beh, comunque la linea è ancora molto lontana anche dopo Monza, in ogni caso comunque vada a finire domenica. Certo, sicuramente i punti persi a Spa sono pesanti, anche perché poi nonostante Fernando continui un po' a tenere sotto traccia Vettel, io credo che effettivamente questa sia una minaccia concreta, sicuramente pericolosa tanto quella di Hamilton, che ha magari una macchina migliore proprio indietro come punteggio, ma Vettel, ridendo e scherzando, su una Red Bull che non è certo la Red Bull dell'anno scorso, è comunque lì e adesso appunto ha avuto questa fortuna di avere questa possibilità di accorciare lo svantaggio. Detto questo, Fernando sicuramente deve fare qualcosa, deve cercare di stare davanti e probabilmente non sarà semplice, perché qua la McLaren pare veramente nuovamente in palla, anche se adesso in questo momento delle prove siamo a 53 minuti dalla fine della seconda sezione e più veloce proprio Alonso. No, dicevo, tornando a bomba, Alonso deve fare qualcosa, diciamo che ci sono anche le prove di riparazione, comunque il mondiale è ancora lungo e credo proprio che mai come quest'anno si risolverà l'ultima gara. Sì, un'ultima cosa, Flavio, prima ha chiamato un ascoltatore e dice: secondo me è un po' un mind game, una mezza bugia quella di Alonso, che dice di temere più Hamilton di Vettel. In realtà sta giocando un po' con gli avversari, ma Vettel è quello che gli fa più paura. È così? No, potrebbe essere. Diciamo che se non altro Fernando, che è molto astuto anche nella comunicazione, sta usando un sistema a prova di bomba, e chi in quel momento, secondo le sue spalle, diventa il suo avversario da battere. Quindi è stato Webber quando Webber era secondo, adesso è Fette, tocca a Fette. Però obiettivamente, in tempi non sospetti, lui ha sempre detto che nella stagione teme Hamilton, cioè lui teme di trovarsi a dover lottare punto a punto con Hamilton, perché lo ritiene un avversario in grado appunto di soffiargli all'ultima gara il campionato, forse anche perché appunto la McLaren ha la caratteristica nel corso della stagione progredire e diventa effettivamente una macchina forte. Sono rare le annate nelle quali la McLaren nella seconda parte della stagione non è convincente, non si possono contare sulla punta delle dita di una mano. Sì, comunque io ripeto quello che ho detto prima: nessuno merita questo titolo più di Alonso, soprattutto per quello che ha fatto nella prima parte della stagione. Direi di sì, perché si è trovato a marzo con una macchina veramente imbarazzante per certi aspetti, o comunque difficile, una macchina sicuramente da domare, un cavallo proprio che andava educato e sellato, e ci è riuscito. Credo che forse degli attuali piloti in situazione fosse l'unico in grado di poter fare questo lavoro. Se lo meriterebbe davvero, anche per compensare forse un po' la sfortuna di quel 2010, quel finale rocambolesco nel quale aveva sostanzialmente vinto il titolo, e possiamo dire tranquillamente che non l'ha perso lui, non l'ha perso la squadra. Sì, gli sfuggì dalle mani. Grazie Flavio, buon lavoro. Prego, grazie. Buon lavoro a voi. Grazie a Flavio Vanetti, inviato al Corriere della Sera. Torno a parlare naturalmente con i nostri convocatissimi ascoltatori, 800 24 00 24, o messaggi 349 238 6666. Mimmo, Bari. Sì, ciao. Senti, ciao. Io sono un tifoso dell'Inter, però quest'anno devo ancora una volta redarguire il presidente Moratti, che ancora una volta, come fece anni fa con un giocatore, l'ho detto all'estero, ancora una volta si è comportato male negli acquisti. Ha preso Cassano, che non l'avrei mai preso. Ah, proprio tu di Bari dici. Ha scoperto la difesa vendendo Lucio. Un barese che dice: non volevo Cassano nella mia squadra. No, ma barese, perché conosco tutti i difetti di questa persona. Tutti i difetti di questa persona. È una persona che praticamente è un buon giocatore, ma non è un fuoriclasse. Non è un fuoriclasse assolutamente. Lo conosco perché sono di Bari, quindi vi posso assolutamente dire che non è un fuoriclasse. Non sono di Bari, ma lo conosco giocatore abbastanza bene anch'io come giocatore, ormai lo conosciamo tutti. È un fuoriclasse rimasto probabilmente in potenza. Invece della scelta di Stramaccioni, Mimmo, cosa ne pensi? Anche perché Moratti oggi ha detto: resto convinto di questa scelta, che è una scelta politica, strategica, eccetera eccetera. Perché abbiamo avuto Mourinho, che ci ha fatto sognare dopo anni di sonno, però Stramaccioni sì, è bravo, però non ha ancora l'esperienza, che c'è l'arguzia dell'allenatore, dello scafato, della persona, del navigatore, ecco. Questo io penso, e penso che qui dietro la difesa dovrebbe rafforzarla, perché siamo un po' scoperti. Non abbiamo grossi giocatori. Silvestri per me è un buon giocatore, ma non è un grosso giocatore. Ma secondo e poi me, l'altro errore, sì, ha perdato Longo all'Espagnol. Non ci dimentichiamo anni fa quando dette quel giocatore, quel Roberto Carlos, possiamo tornare indietro finché vogliamo, ma più che altro l'Inter è vero subisce molti gol, però io credo sia una questione di equilibri più che di interpreti della difesa. L'Inter non mi sembra una squadra bilanciata, mi sembra una squadra che ha un overbooking in un certo ruolo, che è quello del trequartista, del fantasista, e Snyder, e Cassano, e Coutinho, e Alvarez, e ce ne sono tanti, e Palacio, che pure è una seconda punta. Quindi l'Inter presentata da Stramaccioni in questo inizio di stagione, che è stata estremamente ondivaga, soprattutto in casa, che ha preso molti gol, penso abbia problemi di equilibrio. Più che di singoli interpreti. Mauro, Messina. Buonasera a voi. No, io desideravo intervenire su quello che aveva detto prima a proposito di Alessandro Zanardi. Sì. E volevo ricordare che nel mondo dell'automobilismo non è il primo caso, perché chi sceglie questa professione e sceglie il pericolo vuole comunque continuare a vivere, e continuare a vivere sempre sfidandolo il pericolo. Io mi ricordo a Clay Regazzoni, ad Alessandro Nannini, forse l'unico che non si è ripreso da un incidente automobilistico, ma credo che non si sia ripreso anche per le conseguenze del suo navigatore, è stato all'epoca Mark Surer, che era un pilota di Formula 1 svizzero, che poi in un rally ebbe un incidente, morì il navigatore e lui non si riprese più. È gente che ha una forza di volontà impressionante, incredibile, vuole contare, vuole esserci, e quindi a tutti i costi cerca comunque di superare ogni limite in qualunque condizione fisica sia. Mauro, sono degli agonisti, ce l'hanno dentro questa qualità, no? È gente che è capace di risaltare in macchina correndo ai box dopo un incidente pauroso, no? Quante volte lo abbiamo visto, ma vale per i piloti di Formula 1, vale per i piloti del Moto Mondiale, sono comunque atleti diversi. No, proprio per l'agonismo che si portano dentro, esasperato. E Zanardi a questo agonismo aggiunge, secondo me, molte altre qualità. Non ultima un'intelligenza non comune. Grazie Mauro. Intanto c'è Domenico su Twitter che addirittura si è comprato Tony al Fantacalcio. Auguri. Però insomma Tony ieri ha parlato anche della possibile coppia con Jovetic, si è portato avanti e potrei essere utile alla ragazzina, non vedo l'ora di allenarmi con lui per capire se è uno che ha voglia di fare o se è uno pigro, eccetera eccetera. Farà il suo mestiere Tony nella Fiorentina, anche in spogliatoio, ho l'impressione. C'è chi vuole un giudizio di Isla su Isla alla Juventus. Isla è un giocatore che mi piace da morire e ve ne accorgerete quando sarà in condizione di tornare in campo. Due giocatori che avrei rubato all'Udinese dell'anno scorso sono proprio quelli che la Juventus ha preso, Isla e Asamoah. No, dicevo, parlare di un altro argomento con un mio amico, in realtà non è un mio amico, è un nostro vostro amico, coach Dan Peterson. Ciao coach. Ciao ragazzi, buon anno sportivo a tutti. Come stai? Benissimo, benissimo. Dunque, abbiamo rubato la vostra telecronaca su Sport Italia, la parte finale, per raccontare che con enfasi la vittoria dell'Italia del basket in Turchia, su un campo su cui spesso abbiamo preso schiaffoni, eccetera. E adesso 7 vittorie in fila, questa vittoria in Turchia nel modo in cui è arrivata, già qualificati per gli europei. Adesso siamo tutti un po' convinti di avere una nazionale, è così? Assolutamente, c'è proprio tutti hanno fatto un vero capolavoro lì, Simone Pianigiani, il capo allenatore, lo staff tecnico di Luca Dal Monte, Mario Fioretti, preparatore Francesco Cuzzolina, tutto lo staff, lavorato bene, i giocatori sono stati super disponibili per quanto riguarda il tempo, perché non è stato facciamo un allenamento il pomeriggio, siete liberi la mattina, no. Mattina riunione allenamento, pomeriggio riunione allenamento, non c'era sera, forse un'altra riunione, quindi non c'era mai una pausa, proprio un'intensità del lavoro che è proprio come i tennisti che vanno in giro per il mondo, i ciclisti, hai capito? Cioè, non c'era vacanza per niente, erano veramente in monasterio, in clausura per 2 mesi, e questo è il risultato. Abbiamo visto Gallinari giocare per la squadra, non essere il cercato dagli altri un po' come salvatore della patria. Forse non è un caso che la nazionale nasca quando mancano gli altri due dell'NBA, cioè Bargnani e Berinelli, non perché per colpa loro, però ne abbiamo parlato già, coach, altre volte. Io ho avuto l'impressione che per la nostra nazionale di basket avere questi tre fosse una sorta di alibi, no? Palla loro, sono le stelle e noi ci tiriamo indietro. Questa è una cosa diversa, questa è una squadra. Well, io devo dire questo, probabilmente è così, ok? Quindi Bargnani ha fatto la sua parte, ma non diciamo ciò magari che si aspetta da uno dell'NBA. E Bellinelli era uno che faceva, non so, tanti tiri e anche qualche forzatura, non tante forzature, ok? Secondo me loro due... guardando come gioca la squadra adesso e i risultati che vediamo, è stato super positivo per loro, perché quando tornano l'anno prossimo diranno ok, Questo è un telaio che funziona veramente, una struttura che funziona veramente. Ci cerchiamo noi di inserire noi dentro questo schema qui, anziché avere magari la gente adeguarsi a noi. Quindi secondo me alla fine della fiera è tutto positivo, è una grande lezione visiva, o come dicono gli psicologi, lezione obiettiva, quella che tu impari guardando e anche toccando veramente con la mano. Sì, un altro grande alibi era il fatto che non ci fossero playmaker e pivot. E cosa ci volete fare? Ci mancano il pivot e il playmaker, non potremo mai essere una squadra. Well, adesso quello che è successo è che Simone Pianigiani, lo staff tecnico, ha detto ok, non c'è un super pivot, questo qui, però dal rendimento di tre giocatori che sono ovviamente Marco Cosina, Angelo Giglio, David Chiotti, hanno avuto il rendimento di un centro con 15 falli da spendere, se vogliamo dire, cioè rotandoli, poi Cosina magari andava in falli, andava dentro Giglio, prendeva rimbalzo in attacco, Chiotti dava sostanza, poi ruolo di playmaker, hanno ruotato Cincerini, che è emerso alla grande contro Turchia in questa ultima partita, e poi ovviamente Beppe Poeta e anche Daniel Hacker, che non è un playmaker, però in tre giocare, se prendiamo i 40 minuti giocati in tre da loro, hai veramente il rendimento. Ovviamente Hacker gioca qualche minuto come guardia, ma diciamo i suoi minuti come playmaker hanno avuto veramente un rendimento accettabile. Non c'è ovviamente super pivot, non c'è ovviamente super play, però questi sei giocatori, tre e tre, hanno dato un rendimento più che accettabile, è stata veramente la chiave, perché gli altri, Datomi, Gallinari, Aradori, compagnia, Hackett in quell'altro ruolo lì, hanno fatto veramente un grande appoggio. Coach, grazie, naturalmente ci risentiamo presto. Assolutamente, ciao ragazzi, amici sportivi, ciao a tutti. Grazie a coach Dan Peterson. Io torno agli ascoltatori, mentre c'è anche chi fa le previsioni firmandosi con nome e cognome, Daniele Giudici da Como, pescando ovviamente nelle statistiche del passato. Baggio, una stagione nel Bologna, naturalmente una stagione 22 gol, signori 6 stagioni 67 gol, Di Vaio 4 stagioni 65 gol. E poi c'è la previsione, Alberto Gilardino, 3 stagioni, 40 gol, prevede il nostro ascoltatore. Adesso mettiamo via l'SMS, beh, fra 3 anni ne parliamo, 3 anni sono tanti. Cominciamo a vedere come parte Gila nel Bologna. Mauro da Taranto. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto volevo complimentarmi per Dan Peterson, che è sempre un esperto di basket. Beh, ci mancherebbe, cioè, è un grande maestro. Io ricordo negli anni 80 mi trovavo a Bologna e vedevo le mitiche sfide tra Real Madrid e la Sinudin Bologna contro Bender, Wells. È una cosa che mi è rimasta. Comunque vorrei porre due domande. Io prego. Sono interista e devo dire anche anti-juventino. Però non vorrei capire perché la Juve ha licenziato in malo modo il grande Del Piero, perché lo ammiro come giocatore, come uomo, pur non essendo juventino. Seconda domanda, ma come mai un giocatore come Destro, che è stato cresciuto dall'Inter oggi alla Roma, un giocatore come Giovinco, che è stato cresciuto nella Juve, la Juve l'ha dovuto ricomprare? Cioè, sono secondo me delle cose un pochettino assurde, ecco. Beh, assurde, chiamiamoli errori, chiamiamoli ravvedimenti molto costosi, perché la storia del mercato è questa, insomma. Non ci credi e poi nel momento in cui ci credi devi pagare per riacquistare, quindi... Non c'è molto di misterioso in questo. Quanto al licenziamento di Del Piero, ho l'impressione che sia storia un po' vecchia, insomma, storia che risale ad un anno fa. Del Piero non è stato licenziato adesso che se n'è andato a giocare in Australia, è stato licenziato un annetto fa. Sono d'accordo e resterò sempre d'accordo nel dire che, insomma, è stata gestita in maniera poco elegante questa vicenda, e nel dire che Del Piero ha disputato, secondo me, dal punto di vista professionale, nell'anno scorso in cui non ha giocato praticamente mai e in cui spesso è stato costretto a ritagliarsi i ruoli da stracomprimario, ma ha giocato dal punto di vista professionale la miglior stagione della sua carriera. Sergio da Verona, e poi chiudiamo. Vale. Ehi, Niente, volevo sapere, sono un tifoso milanista. Io ho 2 anni che vedo la sofferenza di Pato e via di seguito. Non è che si possa fare qualcosa? Bella domanda. Non so, lo chiediamo a... Lei che soluzione avrebbe? Ma non lo so, li mandiamo bagno a Lourdes. Sì, ma anche tutti e due, Međugorje anche. Sì, Lourdes, Međugorje e aggiungiamoci qualche altro pellegrinaggio che non si sa mai. No, non ho veramente risposte, ma credo che non le abbiano nemmeno quelli del Milan, perché sennò insomma le avrebbero già date. Quello di Pato rimane secondo me un mezzo misterioso. Io continuo a pensare che sia stato così irrobustito in maniera eccessiva rispetto a quelle che erano a quello che era il suo telaio fisico, perché il primo Pato che arrivò aveva un'altra struttura fisica, d'accordo, aveva 17 anni, però era un giocatore che non insomma, nelle prime 2 stagioni si è infortunato mai. Poi si è irrobustito, è cresciuto fisicamente, si è ingrossato e ha cominciato ad avere questa sequenza impressionante di infortuni muscolari. Io credo che la soluzione non l'abbiano ancora trovata, però spero ci sia, perché Pato secondo me è davvero l'unico vero fuoriclasse che ha oggi il Milan. Purtroppo è un fuoriclasse lungo degente. Noi ci fermiamo qui, vi ricordo domani e dopodomani alle 17, dalle 17 alle 18 l'appuntamento con A Tempo di Sport con Giovanni Capuano, mentre tutti convocati qui lunedì pomeriggio alle 2 per aprire la seconda settimana insieme. Grazie a Franco Piantanida per il lavoro in redazione e a Matteo Comes in regia. Buon weekend a tutti.